Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono allibito nel sentire cos'è accaduto a Castelvolturno. Stranieri che si permettono, causa un conflitto tra spacciatori, di mettere a ferro e fuoco una cittadina, distruggendo ben 13 chilometri di strada, auto parcheggiate e negozi sfasciati, senza che intervenga la polizia. Ma dove siamo? Nel far west africano. E il prefetto del luogo cosa faceva, invece di provvedere immediatamente a sedare quei delinquenti? Forse se l'è data a gambe. O si è nascosto, come hanno dovuto fare i cittadini italiani che si sono asserragliati nelle case o nei bar per scampare alla furia. Ma che bel messaggio che si manda ai prossimi africani in arrivo. Venite in Italia, che tanto potete fare ciò che vi pare, spacciare, distruggere, delinquere alla faccia di chi vi ospita. Mi domando, fino a quando sopporteremo? Metteremo in galera qualche responsabile? Io ci credo poco, grazie a tutti quei buonisti che si fanno paladini dell'accoglienza, senza se e senza ma. Fabio. Pregiatissima redazione, ho sentito la lettera di un ascoltatore che protestava vigorosamente contro coloro che affermano che in Italia c'è il razzismo. Secondo lui è solo un modo per sparlare dell'Italia e di chi la governa. Non so dove abbia la fortuna di vivere questo signore, né so che professione svolga, né quali ambienti frequenti abitualmente. Immagino che sia un professionista o comunque una persona di un certo livello sociale e culturale, che viva in una delle più belle città italiane e che abbia amici colti e sensibili. Mi compiaccio con lui e gli auguro di vivere sempre in questa atmosfera ovattata e felice. Purtroppo non è così. Personalmente ho dovuto accorgermene in più di un'occasione. Ma tanto per fare un solo esempio, come giudica le espressioni di un Bossi nei confronti degli insegnanti meridionali, solo perché il figlio è stato solennemente bocciato per ben due volte? Forse la parola razzismo è un po' troppo forte, ma certamente quelle frasi, dando per scontata la superiorità del suo genio, spingono al disprezzo verso altri individui non della sua terra. E la folla non attende che una scintilla per scatenarsi con gli istinti peggiori. Spero che il benevolo ascoltatore faccia la sua parte per attenuare gli effetti di quella campagna sconsiderata, che invece semina tanto male. Cordialmente, Giuseppe, meridionale, pacifico pacifista. Egregio direttore, mi prendo la briga di scriverle per testimoniare e sfogare la mia rabbia e soprattutto per dar voce, forse, alla maggioranza dei cittadini riguardo alle manifestazioni violente da parte di immigrati irregolari e non per le nostre strade, da nord a sud. Non voglio dilungarmi sulle ragioni di tali manifestazioni, che sono note a tutti. Mi limito al metodo che ritengo inaccettabile. Premetto che ho vissuto parecchi anni all'estero per lavoro e come cittadino straniero, ospite di un'altra nazione, non mi sono mai permesso di manifestare in maniera violenta il mio pensiero. Ovviamente non sarebbe stato tollerato e ne avrei pagato le conseguenze. Non riesco a capire come mai in Italia non ci sia un senso civico da parte di un'opposizione che, offrendo il fianco a tali manifestazioni, non potrà far altro che far crescere tale violenza, facendo sentire i manifestanti sempre più spavaldi e impuniti. Ma non lo capiscono o non ci arrivano proprio, o molto probabilmente cercano solamente di trarne un meschino vantaggio politico, magari facendoli poi votare. Riguardo agli esponenti del governo, non capisco perché a questo punto, visto che ad ogni manovra atta a far mantenere l'ordine, per quanto timida, perché forse studiata al bilancino, probabilmente per non infastidire certe coscienze, forse troppo sensibili, vengono tacciati di razzismo, non varrebbe la pena a questo punto agire duramente e lasciare dire, sia all'opposizione, sia all'Europa, che a Famiglia Cristiana, quel che credono, visto che poi lo direbbero comunque. Ma almeno per rispetto alla maggioranza delle persone che non cedono alla violenza. A questo punto mi viene da dire che i razzisti sono le persone violente di qualsiasi colore e tutti i politici che li difendono sempre e comunque. Sì, perché sono le persone normali e tranquille, che lavorano e cercano di far crescere i loro figli nel modo migliore e soprattutto pagano le tasse, le multe e quant'altro arriva nella buca della posta giornalmente a essere violentate da tali manifestazioni, visto che poi i danni li paghiamo sempre noi. Scusi la rabbia, che cerco di sfogare civilmente scrivendole, visto che sono tornato in questo nostro ben amato paese. Vorrei viverci e lavorarci ancora a lungo e in tranquillità. Gigi. A proposito della vicenda Alitalia, mi pare di capire che la vostra opinione sia orientata a ritenere che non aver accettato l'offerta della CAI da parte dei piloti e degli assistenti di volo sia stato un grave errore. La CAI in realtà non avrebbe corso grandi rischi d'impresa, perché inglobando nell'operazione Air One si sarebbe trovata ad operare in condizioni di pseudo-monopolio sul territorio nazionale, ed è facile prevedere che il prezzo del biglietto Roma-Milano sarebbe presto schizzato a qualche centinaia di euro, soprattutto negli orari clou e per i voli andata e ritorno in giornata. I pochi voli internazionali e intercontinentali rimasti sarebbero stati solo una facciata e pressoché inutili, vista l'esiguità per il turismo ricettivo nazionale. Quindi, grazie al monopolio, soltanto utili e pressoché niente rischi per la CAI e la compagnia ridotta ad essere poco più che multiregionale. Da questo punto di vista, quindi, la posizione dei piloti è più che comprensibile, perché dopo 2 o 3 anni, difficile infatti pensare che il governo possa difendere la posizione di monopolio sui voli nazionali per più tempo, Alitalia si troverebbe non come oggi, ma molto peggio. Non sarebbe più presente sui mercati internazionali e la sua immagine nel mondo fortemente ridimensionata. Si parla di 1 miliardo di euro come se fosse chissà quale investimento, mentre in realtà è poco più del costo di un solo Airbus A380, aereo wide body di ultima generazione. Sono ben altre le cifre corrette e utili al rilancio effettivo di una compagnia che non tiri solo a campare o a raschiare il fondo del barile. Ivano. Sono un dipendente all'Italia e come tutti i miei colleghi sto vivendo momenti di grande preoccupazione. Dare giudizi per chi sta fuori è sempre molto semplice. Sembra come parlare della nazionale di calcio, del Piero dentro o fuori. Ma qui ci si gioca un posto di lavoro, una professionalità, o meglio ancora la vita privata. L'accordo quadro del 14 settembre 2008 prevede che un navigante, ad esempio, possa essere trasferito con un preavviso di 30 giorni con famiglia o di 20 giorni senza famiglia. In una delle ipotetiche basi operative della CAI, credete forse che noi abbiamo stipendi da calciatori, tali da poterci permettere di pagare un mutuo a Roma, un affitto a Catania e tirare su i figli essendo monoredditi? Il tutto con il 30% dello stipendio in meno, nella prima proposta, e il 6-7% del protocollo quadro. Non solo. La titubanza su questa fantomatica cordata dell'imprenditoria italiana è forte, oltre alla non trasparentissima trattativa che andava oltre ogni confine della realtà. Tutto questo però non può far esultare i miei colleghi. Non approvo. Sono certo che tutti i dipendenti all'Italia garantiranno fino all'ultimo secondo la professionalità e la serietà. Vi aspettiamo a bordo, un dipendente all'Italia, lettera firmata. Abbiamo fatto un sogno di giustizia sociale. All'Italia è fallita. 3 piccole caste sono decadute tutte insieme. Quella dei suoi dirigenti, che si arricchivano per guidarla, quella dei suoi piloti, quella dei suoi assistenti di volo e di terra, che hanno sempre mostrato alterigia con le loro divise firmate rispetto ai passeggeri e ai poveri dipendenti delle compagnie che pagano meno. Giustizia sociale è compiuta. Il cavaliere che tutto può ha avuto la sua sconfitta politica, insieme coi sindacati, che dopo aver affossato la compagnia durante un cinquantennio, si atteggiavano ai suoi salvatori. Contraddizione in termini, regalandoci una grottesca pantomima con suspense. Ci sediamo al tavolo delle trattative? No, andiamo via per proposte irricevibili. Torniamo al tavolo se tornano gli imprenditori. Gli inglesi dicono «beggars can't be chooser», chi implora non può scegliere. E loro credevano di poter tirare la corda come sempre. Basta, è fallita una compagnia che doveva fallire, come può succedere a qualsiasi azienda privata o a qualsiasi artigiano commerciante quando non ce la fanno più per errori o per alterne fortune. È stata giustizia sociale perché non ci possono essere lavoratori che bevono champagne, mentre tanti altri si possono permettere solo acqua. È giusto che questi 20.000 si accorgano come si sta senza tanti protettori. Alla fine il costo del fallimento per la collettività è minore di quello per il salvataggio. È giusto socialmente. Chi di questi lavoratori davvero lo merita non tarderà a trovare un impiego presso un'altra compagnia. Si accontenterà di buon grado anche di una low cost o di una no frills. E andrà al posto di lavoro con mezzi suoi, senza essere accompagnato dallo stesso datore di lavoro. Che bello! Nel sogno abbiamo visto una classe politica che non ha avuto paura di perdere voti. Ha lasciato che la cosa giusta avvenisse. Angelo. In queste ore tutta l'opinione pubblica è contro i piloti, considerati una casta, un manipolo di privilegiati che protegge i propri interessi, incuranti del più grande e nobile interesse comune. Il governo ora tuona contro questi irresponsabili, ma qual era la posizione degli esponenti dell'attuale governo quando si parlava di tassisti? Questo è un paese bloccato da interessi corporativi, di cui questa maggioranza si è sempre fatta paladina. Chi di casta ferisce, di casta perisce. I piloti di Alitalia, ovvero il Ministero dell'Aviazione Civile, come sarebbe più giusto chiamarla, fanno bene. Ma come? I tassisti no? E noi sì? Volete cominciare da noi a smantellare le caste? Quando l'opinione pubblica si scandalizza per i piloti, che si scandalizzasse anche per i farmacisti, i notai, i tassisti, eccetera. Io sono un ingegnere elettronico, il mio albo non ci dà lo status di casta. Ma se mi chiedessero, lei è contro le caste? Io risponderei, no. Anzi, io propongo di fare una legge che imponga a tutti coloro che acquistano un televisore nuovo l'obbligo di perizia da parte di un ingegnere elettronico. Nella TV c'è la pericolosissima corrente elettrica. Questa è l'Italia. Luca. Caro direttore, ecco un'altra tragedia della strada, nello stesso incrocio di Bresso che ancora non ha dimenticato la recente perdita di una giovane vita. In tutta Europa si stanno eliminando i semafori. Di giorno creano ingorghi e inquinamento. Di notte danno origine a incidenti gravissimi. Infatti, con la gente che gira rincitrullita o, peggio ancora, ubriaca e drogata, è meglio che siano tenuti lampeggianti col giallo. Chi passa col verde va difeso e non illuso con un semaforo. Di giorno le velocità sono rallentate dal forte traffico, ma di notte le velocità crescono molto e se le auto incontrano semafori verdi, le vedi attraversare l'incrocio ad altissima velocità. Quindi è di notte, con semaforo verde, che si raggiungono le massime velocità di attraversamento dell'incrocio. Spesso le auto addirittura accelerano per non perdere il via libera del semaforo verde, ovviamente senza accertarsi di altre auto in arrivo da altre direzioni. Invece con il giallo lampeggiante si rallenta e si transita solo dopo aver verificato eventuali altre auto in arrivo. Inoltre col giallo lampeggiante non c'è più il problema dell'ubriaco che passando col rosso ammazza il poveretto di turno che si riteneva sicuro in quanto rispettoso delle regole semaforiche. Le cunette di dissuasione creano problemi alle ambulanze e le rotonde richiedono spazi non sempre disponibili in un centro abitato. Il problema dell'educazione stradale non è rapido, ma per attivare almeno il giallo lampeggiante di notte, che si aspetta? Non si deve mica cambiare la Costituzione per un semaforo. Ovviamente per chi ubriaco o drogato causa simili tragedie, ci vuole solo il carcere, con spese di mantenimento carcerario, 300 euro al giorno, a carico dei genitori che hanno tacitamente concesso al loro figlio auto potente e notti brave. Marco Bresso. Cara Radio 24, ma adesso che succede? Leggendo i giornali non ho capito se Tremonti per il quotidiano La Repubblica avrebbe detto per ora le tasse non diminuiscono, oppure se devo dare retta a qualche TG per il quale Tremonti avrebbe detto che le tasse diminuiranno in questa legislatura, cioè fra 5 anni. Che devo pensare? Paolo Massa Carrara. Caro Paolo, deve pensare, lo penso anch'io tutto sommato, che sotto un certo profilo Berlusconi, straordinario uomo di capacità come imprenditore e come politico, è un po' sfortunato. Nel 2001, appena vinte le elezioni con una maggioranza schiacciante, che comprendeva però l'UDC, ecco accadere l'11 settembre, lo tsunami economico-militare mondiale, Al-Qaeda, i bombardamenti in Afghanistan, la guerra dell'Iraq. Oggi che stravince di nuovo, e senza l'UDC, ecco la crisi finanziaria mondiale più grave della storia moderna, i cui esiti potrebbero essere, dal punto di vista economico, paragonabili a quelli dell'11 settembre. E in più, crescita zero allora, recessione adesso, e adesso c'è anche l'Italia. Auguriamo al governo un'ottima fortuna, perché potrebbe essere anche la nostra fortuna, e ne avremo tanto bisogno. Grazie Paolo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.